visti da fuori. Uomenta, Petri Burstov, buongiorno. Uomenta, buongiorno. Uomenta, come si dice buongiorno in finlandese? Scusa, ripeticelo. Con allora, una pronuncia dice, accettabile. Sì, esatto, si dice hyvä oppure huomenta. Non assomiglia neanche lontanamente a quella cosa che ho pronunciato io. Comunque, tu sei il corrispondente per l'equivalente della radio nazionale finlandese. Da quanto tempo ti trovi a raccontare l'Italia ai finlandesi? Allora, io sono a Roma quasi da 2 anni. Pronto? Petri? Pronto, sì. Io sono in Italia quasi da 2 anni. E da 2 anni fai il corrispondente e sfoggi tra l'altro un italiano abbastanza impeccabile, lo parlavi prima? No, veramente no, sono arrivato senza parlare una parola, ma poi ho studiato un po' e per me non era una lingua molto difficile da imparare, comunque non lo parlo perfettamente. Quante lingue parli, Petri? Diciamo così, ho studiato 6 lingue, ma non parlo tutte queste 6 lingue perfettamente, ma comunque diciamo sei lingue, già questo è una differenza fondamentale tra il patrimonio linguistico che a volte in altri paesi europei si trova e l'Italia. È un po' una necessità per i finlandesi parlare molte lingue. Sì, è così, siccome noi siamo 5 milioni e fuori Finlandia non si parla il finlandese, quindi se vogliamo viaggiare per forza dobbiamo parlare altre lingue. Poi abbiamo anche 2 lingue ufficiali, non c'è solo il finlandese, c'è anche il svedese. Poi l'inglese si comincia a studiare già nella terza classe, tutte le serie sono in inglese, sottotitolati, con audio originale, quindi si sente tutte le serie televisive, intendi, quindi esatto. C'è questa continua esposizione alla lingua che da noi manca e che facilita l'acquisizione dell'inglese. E l'italiano a tua volta l'hai imparato sui libri di grammatica o con questo metodo dell'immersione? Con il metodo di immersione, la grammatica non l'ho studiato, veramente. Già il primo giorno l'insegnante ha cominciato a parlare in italiano, io non ho capito tanto, ma comunque piano piano ho cominciato a capire. E la Finlandia, visto che hai appreso molto bene la lingua italiana, parliamo un po' anche della tua nazione prima di che tu ci racconti di cosa ti occupi e di cosa parli nei tuoi reportage radiofonici. Per noi la tua nazione un po' coincide con il brand Nokia, inevitabilmente. E recentemente c'era un giornale internazionale che ha raccontato la storia di Juni Lindman, che è un ex manager di Nokia. E questo Lindman, che ha lavorato come tantissimi finlandesi per Nokia dal 98, dagli anni del massimo splendore della società, cioè quando Nokia fatturava una cifra pari al 4% del PIL del tuo paese, poi si è ritrovato disoccupato e non era solo, cioè è uno dei 75.000 lavoratori licenziati da Nokia negli ultimi anni. Si raccontava la sua storia perché lui molto creativamente non si è scoraggiato, ha preso una patente particolare e ora guida gli autobus. Ma raccontaci, visto che in Italia avrai parlato tante volte degli effetti della crisi sulle famiglie, se la Finlandia può dirsi una situazione parallela dal punto di vista della crisi economica rispetto all'Italia. Quali sono le differenze? Beh, la differenza secondo me è che in Finlandia c'è anche la crisi, sì, ci sono persone disoccupate, ma in Italia è molto più grave secondo me. Non ho capito bene come funziona in Italia, ma comunque in Finlandia quando sei licenziato comunque prendi sempre almeno 1.000 euro dallo Stato, quindi puoi vivere più o meno una vita normale, cercare un altro lavoro. Poi lo Stato ti anche aiuta nel cercare un altro posto di lavoro, anche nel caso di Nokia, Nokia aiuta tantissimo quello licenziati di trovare un altro posto di lavoro. Questo secondo me è molto importante. E questa è la grande differenza. Insomma, in altre parole, tu ci stai dicendo, nonostante la crisi, la Finlandia ha una serie di ammortizzatori sociali che funzionano ancora piuttosto bene, anche se le prospettive, chiaro, sono incerte sul futuro, però ricordiamoci che in media, correggimi se sbaglio, un disoccupato finlandese riceve più o meno un sussidio di 67 euro al giorno? Sì, più o meno. Dipende un po', perché dipende tutto da quanto hai guadagnato. Quindi se hai guadagnato 3.000 euro al mese, prendi 2.000 quando sei disoccupato, ma se hai guadagnato meno, prendi anche meno. Quello che mi sembra interessante è il processo di formazione continua. Ora si raccontava di questo signore, ex manager di Nokia, che ora guida gli autobus e a leggere le dichiarazioni sembrava anche soddisfatto, ma soprattutto della formazione continua di coloro che ricevono il sussidio, così che non c'è proprio una passività e un assistenzialismo che porta ad adagiarsi, ma si cerca di acquisire nuove competenze. Questo forse è la grande differenza che puoi notare, al di là del sussidio di disoccupazione, tra Italia e Finlandia. Hai parlato spesso degli effetti della crisi sulle famiglie italiane nelle tue corrispondenze? Sì, infatti mi occupo di politica, dell'economia, della cultura, ma anche dalla vita quotidiana degli italiani. I finlandesi sono molto interessati di sapere com'è la vita, che cosa fanno gli italiani, com'è la vita normale. Quindi io cerco a raccontare questa vita, che cosa mangiano, che tipo di difficoltà hanno, che vogliono fare durante le vacanze, queste cose. E com'è cambiata la tua percezione dell'Italia prima e dopo essere venuto? Perché immagino un'idea del paese tu l'avessi anche prima. Cos'è che ti ha sorpreso? Allora, ci sono tante cose, perché in Finlandia l'Italia non è molto, molto conosciuta, devo dire. Per esempio, per me, l'italiano, prima di arrivare, l'italiano più famoso in Finlandia è Silvio Berlusconi, il quale è conosciuto diciamo un po' come un buffone, e mi è sorpreso, studiando la politica e ascoltando i politici, mi è sorpreso il fatto che lui era un politico serio, con i crediti politici normali di un politico di destra. Non dico che sono un sostenitore, ma comunque mi ha sorpreso il fatto che lui dice anche cose serie. Cioè, io penso che dopo la soluzione per la sentenza Ruby, questa tua dichiarazione sia quella che più lo sta facendo felice negli ultimi anni. La percezione quindi all'estero spesso, e anche in Finlandia, vista, era che Berlusconi praticamente passasse la giornata a esprimersi con barzellette e scherzi, senza avere un impegno politico serio, come dici tu. C'è proprio clown, si intende proprio clown, c'è proprio un uomo di spettacolo. Quindi questa è una delle sorprese che ti sei ritrovato vivendo in Italia. Sei stato anche a Lampedusa. Sì, a Lampedusa sono stato due volte, per fare non solo la cronaca, ma anche ho fatto un documentario a Lampedusa. Poi sono stato molto colpito, sono rimasto molto colpito dalla generosità della gente lì, mi ha sorpreso tantissimo. In Finlandia che tipo di reazioni ci sarebbe stata a un fenomeno omologo, con le debite proporzioni naturalmente? Ah, mamma mia, è impossibile saperlo, perché noi profughi comunque non prendiamo quanto ne prende l'Italia, e secondo me in Finlandia sarebbe stato un catastrofo, non posso dire altro. E quindi tu hai raccontato anche di questa generosità dell'Italia rispetto all'accoglienza. Esatto. Ho raccontato che la gente è molto generosa, che ci sono famiglie che vivono con i profughi, che mangiano, che danno la cena ai profughi, questa grande generosità. Ma poi allo stesso tempo ho anche raccontato che la situazione per quanto riguarda l'immigrazione e i profughi non è sostenibile in Italia, perché si tratta non solo di immigrazione, ma si tratta di una emergenza, perché stanno arrivando così tanto che non c'è la capacità di accoglierli. E chissà che tu, con tutti i corrispondenti che hanno scritto pezzi su queste cose, possa contribuire a sensibilizzare l'Europa alla cooperazione. È uno dei temi che affronteremo nel corso di Spunti di Vista oggi. Un'ultima domanda, Petri: se tu dovessi prendere qualcosa di materiale o astratto, qualcosa, un elemento dall'Italia per portartelo in Finlandia, cosa porteresti via? Allora, io porterei la cordialità della gente. Secondo me gli italiani sono molto più socievoli rispetto a noi finlandesi. Per esempio, sui mezzi pubblici in Finlandia nessuno parla, è come un funerale. Quindi io porterei questa cordialità della gente. Salutaci in finlandese. Hei hei. Che significa? Semplicemente arrivederci? Sì, significa ciao ciao. Grazie, non ti sei sprecato nel saluto, ma abbiamo apprezzato moltissimo i tuoi racconti, Petri Burstov, corrispondente di Yleis Radio finlandese, oggi protagonista del nostro Visti da Fuori. Arrivederci a presto a Burstov. Visti da Fuori ritorna come sempre domani mattina, dove avremo una sorpresa, un corrispondente un po' particolare.